con Chiara Valenti Omero, direttrice della 20ª edizione di Shorts International Film Festival a Trieste dal 28 giugno al 6 luglio 2019. Chiara, ben trovata. Grazie, bentrovati a tutti voi. Da quest'anno, per dire la verità, co-direttrice, perché ho al mio fianco anche Maurizio Di Rienzo, che Oh, dopo tanti Maurizio Di anni, Rienzo. dopo tanti anni di collaborazione, quest'anno è diventato co-direttore. Ecco, l'abbiamo Bene. promosso, quindi condivido. Riepiloghiamo dalle origini per chi non conoscesse il festival, ci racconti un po' la storia? Beh, il festival è nato appunto nel lontano 2000, quest'anno compiamo i 20 anni e nascevamo come festival internazionale di cortometraggi, in un momento in cui forse il cortometraggio non era tanto conosciuto come oggi. E poi negli anni ci siamo evolute, negli anni si è aggiunta la sezione Nuove Impronte dedicata ai lungometraggi però italiani, quelli che piacciono a noi, quelli che magari hanno o non hanno addirittura la distribuzione o hanno avuto così un'uscita poco eclatante, diciamo così, in sala, per cui insomma è una sorta di riscoperta anche di titoli che magari appunto, magari per un weekend sono comparsi nelle sale ma poi sono spariti. Poi negli anni abbiamo così concentrato le nostre attenzioni sui giovani, quindi facciamo un lavoro bellissimo con le scuole che dura tutto l'anno e che culmina nella sezione Shorter Kids and Teens, che è una sezione che si sdoppia in due pomeriggi, uno dedicato alla fascia dai 6 ai 10 anni e l'altro dagli 11 ai 15, e abbiamo tantissimi bambini e ragazzi, adolescenti che si iscrivono e che vengono a votare il loro cortometraggio preferito. E poi dall'anno scorso la novità della sezione competitiva internazionale in virtual reality, per cui cortometraggi VR che arrivano da tutto il mondo. Quest'anno avremo una location stupenda nel foyer del Teatro Verdi, dove allestiremo 15 postazioni e dove ci sarà un momento collettivo e ricomporremo la sala cinematografica, seppur facendo fare a ogni persona che verrà a vedere i corti, chiaramente un'esperienza molto individuale, perché quella della virtual reality è un'esperienza proprio molto soggettiva, no? Ognuno è da solo col proprio visore. Però mi piaceva l'idea che comunque fosse un momento condiviso e per cui inizia lo spettacolo e finisce lo spettacolo per tutti uguale. Nel complesso, quanti lavori saranno presentati? Tra una sezione e l'altra arriviamo ai 140-145 film in 9 giorni. Adesso sì, il calcolo esatto non so, per cui, ma solamente di cortometraggi ne abbiamo 82 in concorso che arrivano da 30 paesi diversi. Poi ci sono 11 nuove impronte, 17 cortometraggi per i ragazzi, più i vari eventi speciali, per cui insomma abbiamo tanti, tanti, tanti film. Autori e autrici saranno presenti? Sì, quest'anno tantissimi, sono molto contenta perché evidentemente c'è un'attenzione nei confronti del festival e la chiamata al festeggiamento dei 20 anni chiaramente ha funzionato, per cui sia i registi, tantissimi registi di cortometraggi che arrivano da tutto il mondo, per cui mi fa un enorme piacere. E i registi delle nuove impronte, a parte due che purtroppo non potranno essere presenti la sera della proiezione perché uno a Taormina e uno ad un altro festival, insomma, però gli altri ci sono tutti, per cui sarà un momento anche di incontro. E tra l'altro quest'anno tutti gli ospiti, dalle giurie agli ospiti degli eventi speciali, ai cortisti, ai registi, ai ragazzi che vengono per lo Short Speech Training, che è un programma proprio di, appunto, di training al pitching che facciamo in collaborazione con Nisi Masa, tutti alloggeranno nello stesso albergo, per cui sarà un momento di incontro anche quello. I luoghi e gli orari. La sezione Mare Metraggio si svolge in Piazza Verdi, ovviamente ogni sera dalle 21:30 perché dobbiamo aspettare che cali il buio, e quindi quella è dedicata proprio alla sezione Mare Metraggio. Poi tutto il giorno ci trovate allo Shorts Hub, che è uno spazio centralissimo in Piazza della Borsa, dove facciamo tutti gli incontri, i laboratori, abbiamo la virtual room, insomma siamo lì dalle 10 alle 20. Il foyer del Teatro Verdi dal 2 al 5 luglio per il concorso dalle 20 alle 22, e il Teatro Miela ogni giorno dalle 18 in poi per le nuove impronte, Shorter Kids e Teens e tutti gli eventi speciali. In chiusura ci dai tutti i riferimenti web per seguire? Certo, c'è la nostra pagina Facebook, costantemente aggiornata, e poi il nostro sito, peraltro nuovo, T-Pascal. Quest'anno abbiamo rinnovato anche quello per festeggiare i nostri 20 anni, è www.maremetraggio.com, dove trovate tutte le schede, tutte le indicazioni per venire a Trieste, tutti i contatti, insomma tutto quello che serve per mettervi in contatto con noi. 20ª edizione di Shorts International Film Festival a Trieste dal 28 giugno al 6 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice Chiara Valenti Omero. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi lupo, a prestissimo, grazie, ciao ciao.